Brasil. La nostalgia do Brasil. Brasil está ali. L'Italia qui. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande. Ragazzacci, buongiorno, buongiorno a tutti. Io non sono per giocarla fuori dall'Italia, ne ho parlato anche con Andrea Agnelli. Andrea Agnelli anche lui era d'accordo con me che forse giocarla in Italia sarebbe stata la cosa più giusta e più corretta. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Diventando grande, lo sai che non mi va. Essendo al 29esimo raduno, credo di riuscire a percepire l'aura che si respira a Milanello. Bene, ieri ho visto un ambiente caricatissimo, un ambiente determinatissimo, un ambiente coeso attorno a Pippo. Tutto Milanello è ritornato, il Milanello di una volta, il Milanello, chiamo Milanello tutti coloro che entrano appunto nel nostro centro di allenamento. Io ho respirato un'aria molto molto positiva. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Le responsabilità me le sono sempre prese e mi danno ancora più forza, anzi per come sono fatto io devo sentire la fiducia di tutti, io parlo delle persone che lavorano vicino a me in società e questo l'ho recepito, ecco perché ho accettato di allungare il contratto, credo di avere anche l'esperienza giusta per poter essere la persona che aiuta a portare avanti un progetto appunto che inizia su buone basi. Marco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltretti in regia, Claudia Scattone in redazione. 800240024, l'estate sta finendo davvero? O forse sta soltanto cominciando? La classica estate italiana di raduni, presentazioni, dichiarazioni di forza o di intenti. Abbiamo sentito De Laurentiis, Galliani e Mazzari. Galliani diceva l'area di Milanello è tornata, sì, un sacco di gente lì. Peccato ci fossero anche nell'area di Milanello un sacco di contestazioni per lui, infondate e assurde, per quanto ho letto e sentito, perché non puoi dire come fanno i tifosi, che pure parlano e continuano a parlare e ad avere un peso in alcune situazioni e scelte. Non possono dire, ma tu non vuoi spendere per il mercato, però chiedi 60 milioni di buona uscita. Che vuol dire questo? Galliani è un dipendente della società, amministra il patrimonio che gli viene messo a disposizione, ma è anche un lavoratore. Quindi i due discorsi non c'entrano nulla l'uno con l'altro. Al di là di questo inciso, classica estate italiana, dunque, dichiarazioni, mercato, mercati, tifosi appunto molto sudati e più o meno felici. Peccato che altri si stiano giocando un mondiale che non è stato nostro. Poi se diamo un'occhiata al mercato ci viene pure un po' di tristezza, poi ne parliamo, parliamo anche di mercato, giorni delle presentazioni. Il Barcellona ha annunciato Suarez questa mattina, ed è totalmente ufficiale. L'Arsenal presenterà Sanchez, il Bayern Leverkusen Lewandowski, l'Atletico Madrid Mandzukic, il Milan Agazzi. Poi torniamo a parlare di tutti questi argomenti e anche e soprattutto di una finale mondiale che insomma mi provoca diverse riflessioni che poi sono ho trovato anche scritte sul Corriere della Sera nel corsivo di Sconcerti. Stamattina sentivo un servizio in televisione dove anche il Brasile sta facendo grossi discorsi strutturali. Allora, non siamo più capaci di produrre giocatori. bisogna cambiare tutto il sistema, tutte le strutture, magari il presidente federale, e ricominciare a costruire giocatori. Guardate la Germania come brava, ha lavorato in profondità sui settori giovanili, ha un sistema efficace, funziona, stadi moderni, soldi e tutto quanto. E l'Argentina? Dove sei? C'è l'Argentina? L'Argentina ha un sistema di produzione dei giocatori avanzato? Ma ditemi voi. Tutti convocati. Coming out winning, they say it's may say I can't do it, but I push through it. I know too many people that blew it. It's a new life, a whole new beginning, a brand new day, and I'm coming out winning. They say it's may say I can't do it, but I push through it. I know too many people that blew it. La rabbia è quella che dobbiamo avere tutti. Io mi auguro che loro siano arrabbiatissimi per essere arrivati ottavi, e perché non quando vedremo la Champions e sentiremo la musichetta non ci saremo. Una società come il Milan, che dove non è mai successo, insomma, la più titolata al mondo, per cui mi auguro che in loro ci sia un grande ci sia grande rivalsa, ci sia grande voglia di far bene. Un allenatore che pretende regole deve essere il primo esempio per i propri giocatori. Insomma, io ho sempre rispettato gli allenatori che mi richiedevano certe cose, ma che poi erano il primo esempio per noi giocatori, di voglia, di applicazione e di programmazione. Per cui io cercherò di essere me stesso, non voglio copiare nessuno. Un giocatore allenato da Pippo Inzaghi, penso che si debba preparare a conquistarsi il posto sul campo. Io l'ho detto alla squadra, è inutile nasconderlo, con me si parte tutti da zero. Penso che la cosa più importante è ricreare il DNA del Milan, vuol dire rispetto, creare un gruppo, ricreare la voglia, insomma, di venire a Milanello ad allenarsi col sorriso. La cosa principale è ricreare un gruppo vero, fatto di regole, di principi, di rispetto per i tifosi. So Ambrosini, la torre, c'è Inzaghi, attenzione, Inzaghi, pallonetto! Mi sento di dire ai tifosi è che sei una squadra che lotterà, perché chi non lotta non può giocare nel mio Milan. Allora, la guida e il numero tutelare del signore che avete sentito parlare ora, cioè Filippo Inzaghi, è anche attuale responsabile del settore giovanile del Milan, è Filippo Galli, questo lo sapete tutti. Ciao Filippo. Ciao, non esageriamo. No, non è così? Io con Pippo ho vissuto 2 anni, un anno alla guida degli allievi nazionali e un anno con la primavera straordinari. Ho avuto modo di conoscerlo da vicino e insomma questo fattore REM, chiamiamolo così, regole, emozioni e motivazioni sono sicuramente il cavallo di battaglia di Pippo. Ed è giusto che sia partito da questi valori, sì, da questi elementi importanti anche a guidare la prima squadra. Insomma, è chiaro che ci sono molte più difficoltà con la prima squadra, è ovvio che non con un settore giovanile, però io condivido tutto quello che lui ha detto. Sì, facilmente condivisibile, come è facile leggere in queste parole, ma anche questo non è un mistero, come quegli ingredienti non ci fossero più già da tempo, non solo con Seedorf ma anche con Allegri. Ma questo, ripeto, non è un segreto, è una cosa scoperta e dichiarata. Che tipo di scelte invece pensi farà l'Inzaghi allenatore? Cioè, che tipo di allenatore è Inzaghi? Ha richiamato il modello Atletico Madrid, questo è facile. Ma no, io l'ho detto, cioè, essere se stesso innanzitutto, che dovrebbe essere la cosa più importante, perché per arrivare ai giocatori devi essere te stesso, non ti puoi mettere una maschera. Cercherà il dialogo e cercherà di essere appunto il più sincero possibile nel dialogo, nel parlare chiaramente ai giocatori, insomma, proponendo quelle regole che ritiene fondamentali, che vanno sia dalle regole di comportamento in campo che dal campo. E lui è stato un esempio come giocatore e come ha detto lui stesso dovrà essere un esempio anche come allenatore. Ma esiste un modello di gioco di Inzaghi? Ma a lui piace giocare col sistema di gioco 4-3-3 piuttosto che 4-3-1-2, quindi sta dietro le due punte. Io credo che qui poi alla fine siano davvero importanti i concetti di gioco, al di là dei numeri e dei sistemi, ecco. Tipo, come ha detto, voglia una squadra che sappia lottare, che abbia la voglia di lottare, che conosca il valore di questa maglia e che sia arrabbiata chi c'era e chi non c'era, perché il Milan è fuori dalla Champions, è arrivato ottavo e quindi deve tornare ad essere il Milan, che al di là dei valori tecnici, sono ovviamente importanti, però ci sono dei valori poi di cuore, di motivazioni, che devono essere riportati in alto. Quello che ha detto Pippo, insomma, ecco, io credo di non aver detto aggiunto altro. Ascolta Filippo, io volevo fare invece un altro tipo di discorso che è quello che ho accennato prima, non so se l'hai sentito. Allora, no, ogni volta... no, ma è questo, molto semplice, riassumendo, sentivo anche in Brasile discorsi di necessità di riforme strutturali, di cambiamento del sistema, di nuovi modelli di produzione, uso questa parola perché è la più semplice, di giocatori. Stessi discorsi che stiamo sentendo in Italia, dopo ogni fallimento si evocano questioni strutturali, tutto condivisibile, tutto quello che vuoi, però se il mondiale poi lo vince l'Argentina, allora di che stiamo parlando? Certamente l'Argentina non ha un sistema evoluto di produzione di giocatori. Certo, non dobbiamo farci distogliere da un'eventuale vittoria dell'Argentina, perché saremmo miopi. Voglio dire, io sono d'accordo che si deve andare verso il cambiamento, ma al di là degli aspetti strutturali, davvero di come intendiamo noi il calcio, di cosa a livello, cioè proprio di tutti coloro che vanno a vedere il calcio, e io ti parlo, sono responsabile del giovanile, da quando andiamo a vedere i giovani, andiamo a vedere i piccoli, dobbiamo dare a loro la possibilità di sbagliare. Oggi non diamo più la possibilità di sbagliare a questi ragazzi, a questi giovani, e quindi inibiamo anche tutte le loro capacità, non permettiamo al loro talento di venire fuori. E questo poi nella crescita si ripercuote. Poi io l'ho detto già in un'altra sede, poi alla fine non ce la prendiamo tanto perché abbiamo perso la partita contro le due partite, Costa Rica e Uruguay, ma perché non le abbiamo giocate. Allora, ma se ai nostri ragazzi, quando vado a vedere le partite di quelli che hanno 10, 12, 14 anni, come appena un difensore, un centrocampista o uno stesso portiere tiene la palla un po' troppo tra i piedi, e subito buttala su e buttala via. Cazzo, dobbiamo dargli invece, scusate lo slang, dobbiamo dargli a tutti quanti l'opportunità di sbagliare, di sbagliare, di crescere nella personalità, di avere voglia di costruire, e non questo calcio sempre basato su quello che fanno gli altri. Io vedo che l'Olanda è uscita l'altra sera, aveva giocato una partitaccia, però i tre difensori olandesi, che secondo me dal punto di vista tecnico sono nettamente inferiori rispetto alla media di quelli, però loro sono abituati da sempre a costruire, a fare gioco, e lo hanno fatto poi con risultati pessimi, perché comunque non c'era movimento in mezzo al campo, non c'era nulla, non c'era un attaccante che allungasse la squadra, niente, e abbiamo visto una partitaccia. Sì. Però io credo che bisogna sempre guardare gli aspetti da migliorare del nostro calcio, non quello che gli altri non fanno bene. Certo, cerchiamo di vedere quello che gli altri fanno bene e cercare di seguire, poi mantenendo la nostra cultura. Fammi però capire, sì. La responsabilità tra molte virgolette di questo modo di crescere di noi, i giovani, di tutti noi addetti ai lavori in primis, ma anche tutti quelli che di una mentalità forse italiana, ripeto, che ha sempre pensato di poter sfruttare dell'altro per poter arrivare al risultato. Io credo che dobbiamo veramente una svolta, prima ancora di pensare di creare centri federali eccetera eccetera, dobbiamo metterci d'accordo su che modello di gioco vogliamo fare a tutti i livelli, e da lì partire. Poi che può essere un gioco, io non dico il gioco di fraseggio, no, il cosiddetto tiki taka, come viene chiamato, sì, è un gioco, non è facile, perché bisogna muoversi, bisogna essere attenti, bisogna giocare in coordinamento con tutti i propri compagni. Non dico che debba essere quello, possiamo pensare anche di voler giocare seconda palla, giochiamo la palla lunga e poi andiamo, però una volta che abbiamo deciso tutti assieme, andiamo, seguiamo quella strada lì, cominciamo, e poi parleremo di tutto il resto. Però dar sempre, come posso dire, la colpa a chi ci sta sopra è abbastanza facile, è troppo facile, è abbastanza unanime. Il movimento si deve muoversi da sotto, quindi da sotto tutti quanti, tutti quelli che che amano il calcio, piace il calcio. Filippo, ti chiedo ancora una cosa invece. Ho parlato molto in questi giorni, per la verità gli ultimi due giorni non ho quasi parlato d'altro, di questa storia della Germania che non doveva infierire in quel modo sul Brasile, e fermati e non fermati, va avanti a giocare, eccetera. La linea guida qual è secondo te? Io credo che si debba giocare, io credo sempre, ho giocato un anno in Inghilterra e lì si gioca. Io credo che questo debba essere lo sport, soprattutto non bisogna come posso dire, prendere in giro, cioè non bisogna essere irridenti nei confronti dell'avversario, ma se si gioca una partita e si fanno le cose che si devono fare, si può vincere 1-0, 2-0, 7-0, 10-0 in base ai valori che vengono espressi in campo, punto e basta. Certo, da giocatore ti saresti arrabbiato di più vedendo gli avversari che si fermano e che quasi ti scherzano, piuttosto che vedere gli avversari che vanno fino in fondo. Sì, io direi assolutamente sì, assolutamente. Grazie Filippo. Grazie a voi, davvero. Un abbraccio. Ciao, grazie Carlo, Filippo, ciao. Galli. Prima di fermarci per la borsa, primo ascoltatore di oggi, 800240024, Ali da Milano, buongiorno. Buongiorno, io chiamo per un problema di Milan. Sì. Allora, non sono d'accordo con Galliani, quello che ha detto oggi, che ha visto che tutti i Milan sono scarichi, tutti siamo motivati. Allora, il problema del Milan è proprio lui, perché ha voluto mandare Seedorf per prendere Inzaghi. I giocatori del Milan sono scarsi. Io sono milanista da 80, da quando sono in Africa, sono del Mali. Da 80 che seguo il Milan, ma Galliani ha fatto delle cose buone, ma ultimamente è lui che sta rovinando il Milan. Beh, Ali, Galliani utilizza per il mercato, questa è una delle accuse che gli sono state mosse dagli stessi tifosi, usa per il mercato i soldi, i quattrini che la società gli mette a disposizione. In questo momento i quattrini sono pochi, quindi la politica del Milan è anche quella di questo mercato. Cioè, non si vanno più a prendere top player, si segue il mercato degli svincolati. Certamente in alcuni casi questo è da capire, si garantiscono a questi svincolati, mi viene in mente per primo Essien, ma ci sono molti casi, nel Milan Robinho può essere un altro, si garantiscono a questi svincolati un sacco di quattrini di ingaggio, però la politica è questa, quindi mi sembra evidente che chiaro, Galliani voleva Inzaghi, Inzaghi è sempre stato il suo pupillo, il suo uomo di fiducia, il suo idolo e tutto quanto. Però non è stato Galliani a portare direttamente Inzaghi al Milan, a portarlo alla guida del Milan, è stata una scelta evidentemente condivisa dal proprietario. La verità è che con Seedorf, e questo l'abbiamo capito perfettamente, ma risulta a contrario dalle parole di Galliani, la squadra non esisteva più, cioè non c'era più un gruppo. È evidente, tutto dipende dalla qualità dei giocatori, però con Seedorf o mandavi via tre quarti della squadra, e questo il Milan non se lo può permettere, o mandavi via Seedorf, cosa che è stata fatta. 800240024, adesso la borsa, poi arriva anche Pardo, mi pare, subito dopo la borsa. Solo quando perde incide per il 100%. Questa è la dura legge dell'essere allenatore, l'ho imparato e lo sapevo, insomma, ma è giusto così, a me va bene così, quando si vince sono bravi i giocatori, quando si perde scarso l'allenatore, ma io sono pronto a tutto. Tutti convocati. Deus me abençoe aquele lance também por ter machucado. Se fosse 2 centímetros para dentro, eu hoje. Desculpa. Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então é complicado você falar de um lance que num momento tão importante da minha carreira e acaba sofrendo, mas faz parte, aconteceu e vê que segue. Bora. Ma questo era Neymar che è ricomparso a far coraggio ai suoi compagni al ritiro del Brasile, ovviamente non potrà giocare, e qui racconta Zuniga non ha fatto apposta a fare quell'intervento, però 2 centimetri più in là sarei stato paralizzato, e giù a caragnare, a frignare. Questo è il grande leitmotiv del mondiale brasiliano, le lacrime. Ma d'altra parte, poveretti, a me va di difenderli, perché Questi hanno giocato, hanno vissuto un mondiale con un gorilla sulle spalle, con il mondo addosso. Ma ve li immaginate in Brasile, un mondiale giocato molti anni fa, finito come sapete con il fantasma dell'Uruguay che ancora gira da quelle parti. Adesso una squadra per di più scarsa, per di più senza i due suoi migliori giocatori, con tutta quella pressione addosso, e metteteci anche i motivi sociali, economici, di rivalsa, oltre all'importanza, alla religione calcio, e insomma, io posso quasi capire che siano diventati una squadra di grandissimi fregnatori. Simone da Bologna, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Io vorrei fare una considerazione sul mercato della Juve e chiedere un suo parere. Sì. Perché secondo me sono almeno un paio d'anni che i limiti della Juve sono abbastanza evidenti, quindi la mancanza di esterni che Conte ha richiesto più volte, e a mio parere forse una cosa sottovalutata è il problema della difesa, visto che forse Barzagli è l'unico che dà delle certezze, abbiamo visto anche al mondiale che purtroppo, visto le condizioni fisiche, sono un po' quelle che poi sono. Adesso è stato operato, quindi starà fuori per un po', eccetera, esatto, eccetera. Però vedo che non si sente parlare di centrali, eccetera, eccetera. Tenendo conto che purtroppo siamo usciti abbastanza presto dalla Champions, e anche se la matematica è arrivata un po' dopo, ma virtualmente già verso aprile il campionato era già quasi nostro, non capisco come mai la società non si sia attrezzata prima per prendere quei giocatori che ci servirebbero. Siamo arrivati all'11 di luglio e abbiamo preso forse un 33enne, che forse è il male minore, un buon attaccante in prestito a 18 milioni di euro, che se è buono poi lo rivendiamo, se non è buono ce lo teniamo. Beh, poi adesso vediamo con i turbe. Bene, un 93 che però viene pagato caro, mi sembra. Di giovani ne abbiamo tanti che hanno fatto forse anche meglio di lui questo campionato, e li abbiamo venduti. Un 93 che è bravo può valere anche parecchi quattrini, se ritieni che sia un buon investimento, giusto farlo. D'altra parte, Simone, io credo che la difesa juventina non sia al massimo livello possibile al mondo, però poi mi viene da ridere leggendo la linea difensiva che giocherà la finale del mondiale, cioè quella argentina, che è una roba da bassa serie A dal nostro punto di vista. Ci sono stati un sacco di giocatori che abbiamo bocciato. Pensate alla Colombia e alla linea difensiva, ad esempio, della Colombia, guidata dal gigantesco Marione Yepes. Ragazzi, va bene tutto. Io credo che la Juventus l'anno scorso abbia fatto un investimento importante che non ha fruttato, è stato quello su Ogbonna, ha speso molti soldi. Ogbonna era un giocatore di eccellente livello, quest'anno è sparito nel Savia Immobili della panchina juventina. Può essere che ci credano ancora o vorranno comunque tutelare il loro investimento. Non credo che Ogbonna sia da bruciare, da svendere dopo una stagione che è stata chiaramente fallimentare. Allora, a proposito di fallimenti e di estate che sta finendo o cominciando, non lo so, questo secondo me cominciando, il mondiale ha lasciato in eredità da queste parti un sacco di strilli che sono molto italiani, molto duri se vogliamo, ma anche divertenti. Chiesto sulle dimissioni di Prandelli, ma poi, se c'è uno che non si meraviglia di nulla su quello che fa Prandelli sono io, perché l'ho visto all'opera, quindi vederlo scappare dopo il casino che ha fatto non mi meraviglia affatto, sta nella DNA dell'uomo. Diego Della Valle ha detto: è nel suo DNA scappare. Sei d'accordo che sia una figura negativa? Ma sai, io credo che ha sbagliato questo mondiale, ma aveva anche dei giocatori non all'altezza, cioè non è che sia solo Prandelli. Noi siamo partiti con dei giocatori che in effetti non erano i giocatori cui vincere il mondiale, per cui tutti si aspettano sempre di vincere, però deve avere la materia prima, lui non ce l'ha avuta nel modo più sicuro. È una persona che non ha le capacità per fare bene le cose, riesce a costruirsi dei rapporti mediatici sempre molto forti, ma poi alla fine, quando c'è da dimostrare dei fatti e della sostanza vera, manca sempre l'appello. Non serve polemizzare, non serve a nulla. Diciamo che non è stato elegantissimo il nostro ex CT. in questo caso, voglio dire, ha lasciato l'Italia con l'amaro in bocca, non ha spiegato a nessuno cosa è successo, non ha avuto neanche la modestia di dire adesso vi racconto cosa ho fatto, me ne assumo tutte le responsabilità. Insomma, mi pare una brutta roba, però non voglio polemizzare. Meno male, pensate se avesse voluto polemizzare Diego Della Valle, chissà cosa veniva fuori. Abbiamo sentito lui, abbiamo sentito Briatore, abbiamo sentito Galliani. Non è che Prandelli in questo momento abbia molti amici da queste parti, però c'è una verità di fondo. Insomma, lui secondo me doveva spiegare meglio le ragioni di questo fallimento, perché non basta dire che quelle due cose, Giuseppe Rossi mi ha deluso umanamente, dici cosa è successo al capitolo Giuseppe Rossi, sta tutto in quel tweet, io non ci posso credere, dici cosa è successo al capitolo Giuseppe Rossi, dici cosa è successo al capitolo Balotelli, dici com'era quel ritiro, perché e per come le cose non hanno funzionato. Questa assenza di spiegazioni lo rende Prandelli facilmente attaccabile e ci stanno col fucile in mano, soprattutto Diego Della Valle, che però non vuole polemizzare. Mi raccomando, 800 24 00 24. Pino da Torino, buongiorno. Sì, ciao. Io volevo intervenire relativamente al fatto della riorganizzazione dei settori giovanili, della costruzione dei campioni, calciatori, eccetera, eccetera. La mia osservazione è questa: io mi preoccupo sempre quando in situazioni come questa della nazionale, ovvero di fallimento, ti dicono bisogna riorganizzare, bisogna rifare, bisogna rivedere tutto, sì. Probabilmente poi per non cambiare nulla. Ma chiaro, nel senso che poi alla fine cosa vuoi cambiare? Tanto, oltretutto io sono convinto che se è vero che il calcio è l'espressione di una nazione, di un popolo, così come per gli italiani e i tedeschi, non è che una formula o un'organizzazione che va bene in Germania, ricopiata in Italia, ammesso che lo si possa fare, dà poi dei frutti. No, ma poi loro noi sono bravi. Differenti. Ma noi loro sarebbe sono impossibile proprio per quello che dici tu, per questione di mentalità, replicare un sistema che in Germania funziona è perfetto. Cioè, lì hanno stadi sempre pieni, hanno giovani che crescono, hanno davvero un. Sono stati bravissimi a cambiare mentalità utilizzando la strada del talento che indubbiamente molti giocatori hanno. È una Germania multietnica e questo lo stiamo dicendo da quella famosa Under 21 che poi ha partorito questa Germania che giocherà la finale. Quindi hanno messo la tecnica al centro del progetto, hanno fatto molte cose, strutture, impianti e tutto funziona perfettamente. In Italia da che parte cominciamo? Signori, da dove partiamo? Non saprei cosa dire. Poi è facile in questo momento usare queste grandi frasi ad effetto, pieni di demagogia peraltro. Bisogna cambiare sistema, ma probabilmente ha ragione Filippo Galli. Bisogna cambiare magari qualcosa nel modo di gestire i settori giovanili, di insegnare il calcio ai ragazzi, qualcosa a livello di mentalità, che magari mi direte voi è pure più difficile. Poi io continuo a pensare, anche qui guardando all'Argentina, l'Argentina strutture non esistono, c'è un sistema che è forse più o meno il nostro o magari peggiore, non mi dite c'è un grande campionato, non mi dite che ci sono gli stadi, le strutture, c'è niente, l'Argentina c'è niente, ok? Cosa fanno i giocatori? A 18 anni vanno a giocare all'estero, o prima vanno a giocare all'estero, e questo secondo me è anche un cambio di mentalità che dovrebbe interessare noi. Cioè, io continuo a ripetere, mi ha annoiato moltissimo la demagogia, vogliamo vedere più giovani giocatori italiani in Serie A. No, io voglio vedere giocatori bravi e in condizioni di mercato, perché anche in altri sport il protezionismo non funziona, cioè non bisogna garantire posti di lavoro a giocatori solo perché sono italiani e magari a prezzi spropositati. Bisogna seguire le leggi di mercato, per cui uno vuol fare il giocatore, non trova ingaggio in Serie A, non la trova in Serie B, non la trova in campionati inferiori, oppure vuole giocare ad altro livello che non siano i campionati inferiori, benissimo, prende e segue una strada diversa, va a giocare da un'altra parte. In quale campionato? Dipende dalle condizioni di mercato, se è sufficientemente bravo magari andrà in Francia, in Inghilterra, in Germania, altrimenti scendiamo di livello, Lussemburgo, insomma il mondo è grande, Turchia, e vediamo. Secondo me è questa la filosofia che si dovrebbe seguire, secondo me. Moreno, Padova, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo dire la mia sull'Inzaghi allenatore, che secondo me, magari poi mi spiegherò, prendono un allenatore che conosce troppo i compagni, diciamo, che dopo diventano i ragazzi da allenare, secondo me non fa tanto bene. Io penso alla maestra o al professore che non vorrebbe mai insegnare al proprio figlio, non vorrebbe mai avere come alunno il proprio figlio, e perché le simpatie purtroppo secondo me sono impossibili da è molto difficile, ha ragione, è un discorso, questo è un discorso importante, valeva anche per Seedorf, esatto, secondo me Seedorf non era, era bravo come allenatore, io a parte vabbè che non aveva tanta esperienza, però secondo me lui aveva la avrebbe avuto la possibilità di alzare la voce, solo che poi ti trovi con degli amici che poi alla fine sono amici, c'è poco da fare. No, molto difficile, molto difficile, questo è molto difficile, perché quando sei compagno di squadra, quando sei giocatore si creano dei rapporti diversi, e poi è molto difficile tornare indietro, andare da un'altra parte, quindi è lì che... molto difficile ma non impossibile, è lì che su questo punto sul quale, questo è il punto sul quale Inzaghi dovrà lavorare molto, cioè dovrà davvero avere l'intelligenza, l'abilità e il carisma di stabilire i giusti rapporti con i giocatori, soprattutto con quelli che sono stati suoi ex compagni di squadra, quindi questo è un problema reale a mio parere, lei ha ragione. Tutti convocati. Noto che sul discorso, sulla non polemica, per carità, però sul così rimpallo di complimenti tra Prandelli e Della Valle, le opinioni si dividono, dal bravo Della Valle che scrive qualcuno, almeno Della Valle dice le cose in faccia essendo sincero, al meglio Prandelli piuttosto che un Della Valle che ad ogni torto arbitrale minaccia di andarsene. Oppure Carlo da Torino, la Fiorentina con Prandelli è entrata due volte nelle prime otto d'Europa, ha sfiorato una finale di Coppa UEFA, ma allora i difetti non emergevano, il tiro al bersaglio dei dirigenti di club verso l'ex City è penoso e risibile, tacciano, questo lo scrive Carlo da Torino, 349-238-6666. Certamente è un argomento, è un interessante argomento di discussione, eccolo là, ciao Pierluigi Pardo. Come va? Molto bene, tu? Bene, tirai del mattino, adesso vai, sto rientrando. Andrai a vedere quella vergogna sportiva che è la finale per il terzo e quarto posto? Facciamo un partito per abolirla, si può? Certo, sono d'accordissimo, potrei addirittura... Abominio. Poi magari la vedo per protesto. Devo dirti che rispetto al passato, la sconfitta 7-1 del Brasile in casa la rende... gli trova un minimo di interesse perverso motivo sportivo, oltre che per il mio Twitter, soprattutto per il mio Twitter, che sarebbe è il concorso che faccio lì, ho capito, ma il tuo pronostico sarà non lo so, conferenze stampa le faccio, poi non posso dare un vantaggio alla concorrenza, classifica, non posso dare un vantaggio agli altri, stanno lì tutti a sentire Radio 24, quindi sei veramente pazzesco. Comunque l'abolirei anch'io, sono d'accordo con te, una cosa antistorica che non serve a niente, una specie di funerale sportivo tra due squadre deluse in lacrime, figurati il Brasile, altro che funerale sportivo, qualcosa di peggio. Tra due squadre deluse, a pezzi, perdenti, dopo un mese di sofferenza, hai perso il sogno e ti fanno giocare quella roba lì. Mamma mia, è una roba. È brutta, veramente. Brutta davvero. Senti, invece hai letto, sentito Della Valle su Prandelli? Perché il Mondiale ci ha lasciato in verità tutte un sacco di strilli, molti italiani, dicevo prima. Molta amicizia c'è nell'aria. Sì, molta amicizia. Però Della Valle, hai sentito, ha precisato: io non voglio far polemica. Sì, no, non voglio far polemica, però lo conosco ha detto lo conosco, non mi sorprende. Ah. Non mi sorprende assolutamente il suo comportamento. È nel DNA dell'uomo, eccetera. Sì, è nel DNA dell'uomo. No, ma non voglio far polemica. È scappato a gambe levate, è tutta colpa sua, è un faravuto, però non voglio fare polemica, gli voglio bene. Lo dico tutto bene. Love is in the air. Love is in the air. Però insomma lì sono storie tese fra di loro, insomma, mi sembra che certo vedi come la sconfitta apre le gabbie, no? I peggiori spinti, nel senso che adesso ognuno, tutti quelli che avevano qualcosa di magari di represso, di nascosto e di così di sotterraneo contro Prandelli, adesso lo tirano fuori, quindi insomma questa è la è la sostanza, ed è una sostanza che ci sta tutte le volte che si perde, tutte le volte che si perde in maniera fragorosa e terribile, come è successo a noi. Insomma, ascoltami. A me non piace, dico, a me non piace complessivamente il tempismo, no? Nel senso che è facile attaccare Prandelli adesso. Beh, certo che è facile, no. Certo, è facile. È debole come posizione, non naturalmente. Non so dire tra i due chi avesse ragione, non ho idea neanche io, però quello che non me ne può fregare di meno, però ecco, il tempismo in questo momento mi sembra che da Bagnelli. No, guarda, l'unica cosa che dico adesso, ovviamente viene da stare con Prandelli, qui sparano tutti addosso, però l'unica cosa che dico è che poteva spiegare in maniera un po' più esauriente il perché, tanto ormai allena il Galatasaray, che gli frega, cioè non mi basta che lui dica Giuseppe Rossi mi ha deluso come uomo, allora spiegami perché, cioè solo per quel tweet oppure c'è dell'altro? No, penso che questo l'abbia fatto capire per quel tweet, perché ho capito sta tutto adesso, perché questa volta aveva fatto capire di essere rimasto deluso da lui, quindi Vabbè. Comunque aiutami a rispondere a questo messaggio. Prima ho detto mi viene voglia di difendere, ho sentito Neymar in lacrime a spiegare, ma se mi prendeva 2 centimetri più in là rimanevo paralizzato, e giù a piangere un'altra volta. Le lacrime sono il grande tema di questo mondiale brasiliano, però come ti ho detto già diverse volte, già una squadra scarsa, giocare con la pressione che hanno avuto addosso per mille motivi, per quello che rappresenta il calcio per il Brasile, per la situazione politica, sociale, per tutto quello che vuoi. Cioè, ragazzi, per questa gente il mondiale deve essere stato davvero un incubo. Poi c'è anche chi mi scrive: rimango basito dalla vostra arroganza di giudizio, bollare come scarsi i giocatori brasiliani dove 7 su 11 hanno vinto Champions e altri in Europa. Allora, se sono scarsi gli italiani, dove li collocate? Allora, io ripeto, secondo me questo Brasile è una squadra complessivamente molto modesta. Sì, beh, poi soprattutto c'è la storia, c'è il paragone con la storia. Cioè, se il Brasile non si fosse chiamato Brasile, si fosse chiamato, non so, Repubblica Ceca, avremmo parlato di una squadra molto interessante, ma qui il punto di partenza è quello di una della squadra che ha vinto di più al mondo. Ed è chiaro, se fai un paragone con il Brasile del 94, fai il paragone con il Brasile dell'82, che pure uscì contro l'Italia con una nostra grande impresa, fai un paragone e ti viene da ridere, insomma. È un momento, ma lo dicono gli brasiliani stessi, è un momento di crisi generazionale per il loro calcio, per questo non ci sono discussioni, cioè mi sembra pacifica questa cosa. E in generale poi ti dico, sì, le lacrime, va bene tutto, ma insomma poi il mondo va avanti, la vita va avanti. Io no, ma questo, guarda, io forse alla fine lo interpreto invece come un segnale di maggiore intelligenza e di crescita umana, no? La leggenda dei suicidi del 1950, qua mi pare che grazie a Dio che non si stia suicidando nessuno. Certo, c'è un po' di depressione, c'è un po' di gente che guferà e tiferà Germania, ma insomma alla fine è la vita. Ho letto delle cose un po' retoriche da questo punto di vista in questi giorni, capito? Come se fossimo di fronte a una tragedia epocale, a una catastrofe, a un 11 settembre, qualcosa di questo tipo. No, certamente la vita va avanti, però sappiamo anche quello che rappresenta quel pallone. In quel paese. Pier, ci fermiamo per Bad Corner, GR eccetera eccetera, poi ci ritroviamo, anche perché voglio fare un riassunto del mondiale a questo punto. È la partita più bella, il gol più bello, il giocatore ti è piaciuto di più, tutte queste belle cose. A dopo. Quote e pronostici. Cominciano a crescere le difficoltà al Tour de France, 234 km la frazione odierna che porta il gruppo in Lorena. Nessuna difficoltà fino agli ultimi 17 km, quando bisognerà affrontare due salite, una al 5, l'altra all'8%, poi una discesa facile fino al traguardo, finale aperto ad ogni soluzione. E sono queste le quote SNAI per la vittoria di tappa. Peter Sagan è il favorito ed è quotato 4, Christophe è quotato 7,50, Albasini e Gerrand sono quotati 15, occhio però ai colpi a sorpresa di Van Avermaet e di Vauclair, quotati 25, e di Fabian Cancellara, quotato 20. In attesa delle finali del mondiale previste per sabato e domenica sera, tiene banco anche il calciomercato con le sue trattative, e allora è possibile indovinare il cambio di maglia o meno di alcuni giocatori. Inzaghi di fatto ha confermato Balotelli, ma un suo cambio di maglia è quotato 1,60. Balotelli che rimane al Milan invece è quotato 2. Radiomercato fa anche spesso il nome di Pogba come iniziato a cambiare maglia, lui che è lo stesso procuratore di Mario. Un suo cambio di maglia è quotato 2,60. Pogba che resta alla Juve invece è quotato 1,35. Questa era l'ultima delle quote di oggi, noi ci risentiamo domani. tutti convocati. Soffriva, ma non sembra un tedesco, è un, per forza è il Prandelli della Germania, è un vecchietto abbastanza alto che è apparso varie volte, che ho visto molto oggi, guardato la partita di stasera, perfino per colpa tua guardo le partite, ho visto due gol dei sette, sei riuscito a vedere, e anche l'ultimo di consorzione che ho fatto fare apposta, è chiaro, c'è un vecchietto sui 65 anni tedesco, che è l'allenatore probabilmente. Vabbè, uno che, Scolari. Ah, Scolari, chi è quello lì? Quello che assomiglia a Ginecchi, Brasile, quello che abbiamo detto, quello somiglia a Ginecchi, eccolo, guarda, lo stai vedendo adesso, che ha perso, ecco, vediamolo, c'ha l'aria di uno sereno, eccolo, lo vedi lì, è lui, no, non lo vedo, ma quello lì, quello lì, è lui, forza, è l'allenatore del Brasile, come l'ha sofferto, quello è un Prandelli bollito, hai visto, quello è un pensionato. L'altra cosa, l'ultima che volevo dire, sì, è che domani i giornali avranno una notizia così straordinariamente enfatica di questa sconfitta che neanche il Papa avrebbe. Il Papa che parla contro la mafia fa bene una notizia del Brasile che perde. E questo prova che la religione nel nostro tempo è più il calcio della religione cristiana. Chi se ne frega del Brasile e della Germania, un paese inutile come la Germania e un paese di disperati come il Brasile, stiamo qua a piangere, ma che cazzo ce ne frega? Vabbè. E via con Notti Mondiali e Sgarbi. Notti Mondiali e Sgarbi, ma che ce ne frega, che cazzo ce ne frega, Brasile e la Germania. Beh, d'altra parte credo sia finita da un pezzo l'era del politico lì correct. Pierluigi? Dico, le ambasciate si sono già fatte vive, ambasciate tedesca, tutto bene, sì popolo inutile, paese inutile, è un paese di, un paese inutile, è un paese di disperati, hai capito? Ah, di disperati, il Brasile è un paese disperati, ma è un paese inutile. D'altra parte è meglio essere inutili o disperati o tutte e due? Questa è la vera domanda. Sembri Marzullo invece tu. Notte alta e sono sveglio. A proposito di politically correct, vuoi sentire il titolo che ha battuto ora il Daily Mail? Sai che Barcellona ha ufficializzato Suarez, no? Suarez, sì. Addio attaccante razzista che morde e simula. Evviva. Evviva il politico di correct, È una compilation, diciamo, delle peggiori malefatte di Suarez, senza ovviamente contraddittorio, senza un riassunto, attenuanti, sì. Però insomma, diciamo che i tre capi di imputazione ci sono tutti. Detto questo, per me è un grande colpo quello di Barcellona, Sì, però per il Barcellona è stato anche un gran colpo vendere Sanchez a 40 all'Arsenal, Sì, beh, è un buon prezzo, ha un... Però insomma non è così distante secondo me dalla realtà, c'era anche l'interesse della Juve, e posso dire che insomma se Iturbe vale 27 milioni, e Iturbe chiaramente è un prospetto interessantissimo, non gli sto togliendo nulla, ci può stare però che Sanchez costi 40, perché comunque è un giocatore nettamente più nel pieno della sua maturità, quindi insomma Iturbe è un prospetto fantastico, è quello che era Sanchez qualche anno fa, diciamo. Prima magari della stagione, quella esplosiva, l'ultima stagione di Italia con l'Udinese, che ne fece poi impennare il prezzo. Sì. No, insomma, il prezzo è giusto, ecco, per dirla come in quel pizzo di qualche anno fa. Sì, mi fa notare Piantrena che l'anno prossimo Barcellona Real Madrid sarà qualcosa come Bale, Ronaldo, Benzema, mettiamo contro Neymar, Suarez e Messi. Mica male. Mica male. Ascolta, volevo chiederti più o meno come da noi, sì. Una roba simile. 800-24-00-24 è il numero verde. Volevo chiederti in rapida successione, prima di salutarti, la partita più bella che hai visto in questo mondiale? Non dirmi quella che deve ancora venire, per favore. No, non ti dico quella che deve ancora venire. Belgio Stati Uniti è stata bellissima. Sì. Cito a memoria. Sì, Belgio Stati Uniti, secondo me è stata la partita col miglior mix di mi è venuto mix tipo limitazione mix ho capito che dipendo un mix eccezionale, okay. Col Belgio Stati Uniti è stato secondo e invece me, parlo sempre di partite che hai visto dal vivo, Spagna Olanda è stata una partita bella per prevedibilità, insomma, però sì, questione di punti di vista. A me piace l'equilibrio, anche a me piace l'equilibrio, cioè partite, le partite all'ultimo respiro, quelle 5-0, 4-1 mi divertono di meno. E tra quelli che hai visto, sempre a memoria, il gol più bello? Mi dovevo preparare, vedi, mi dovevo preparare. Beh, Messi ha fatto il bel gol con l'Iran di Messi. È strepitoso, eh? È strepitoso, sì. È una roba. Potrei essere d'accordo con te, ma per ragioni, essenzialmente per ragioni di cuore. Poi ce ne sono Lo so, tu ti farei molto, Ti farei molto. Io come so, nasce il tuo amore per l'Argentina? Parlamene, dai. Parlamene, te ne ho parlato tanto. Ma poi gli ascoltatori si arrabbiano perché mi sono innamorato dell'Argentina quando avevo 10 anni, ho visto il Mondiale 78, loro hanno vinto, mi appassionavo quella squadra di Capellone e Tagliagole, cosa volete che vi dica? Poi mi dicono, ah guarda, tu sei un... c'era Videla e poi c'è la mano di Maradona e sei un... quello che vuoi, d'altra parte me ne frega niente, io tifo per l'Argentina. Poi dopo quello è arrivato Maradona, mio idolo assoluto incontrastato, e adesso arrivano con gli insulti, è quello lì che evade il fisco, che è un drogato, eccetera. No, è normale contraddittorio, però non posso farci niente. Il mio cuore batte per loro. Posso chiederti anche... dimmi. Sì. No, io ieri ho fatto questa intervista a Rosigna, nella favela di Rosigna, e ci sono anche dei brasiliani che ti faranno Argentina in finale. Cioè, voglio veramente? Dire, tutto è contrario di tutto? Sì, c'è tutto. Voglio dire, le ragioni del cuore, la simpatia magari per un giocatore piuttosto che per un altro, cioè il calcio da questo punto di vista offre scenari, no, ma poi è pure istinto, dai, non illimitati, ma è pure istinto, è pura passione, ma secondo me così deve essere, anche molto il colore della maglia, quanti bambini diventano tifosi di una squadra perché magari gli piace la maglia, cioè ci sono delle dinamiche assolutamente irrazionali che però meritano di essere rispettate, oppure perché si innamorano di un giocatore, poi sì, c'è l'esempio dei parenti e genitori, questo ovviamente soprattutto a livello di squadra di club, però sì. In generale quante famiglie hanno delle situazioni miste, no? Dove un fratello ti fa per una squadra e l'altro ti fa per la rivale, cioè ci sono, questo fa capire. Ma è anche il suo bello, dai. Assolutamente. Quindi ne hai facoltà, puoi di fare per l'Argentina. Grazie. Io devo di fare Germania per quittavo, capisci? Se no ti super in classifica. Da lì, ti super in classifica Cruciani, mettiamo fuori i manifesti per tutta Milano. Se vince la Germania, chiudo bene. Chiudi bene. Motivo in più per tifare Argentina. Se me ne serviva un altro. Sembra carina sta cosa. No, posso chiederti anche il giocatore che ti è piaciuto di più? Beh, James Rodriguez è il giocatore che secondo me. Hai cominciato a chiamarlo James anche tu, Sì, sì, no, ma io iniziavo quasi subito perché poi insomma. Oppure Giacomo Rodriguez è quello che mi è piaciuto di più in cioè mi sembra la vera rivelazione del mondiale, dai, mi sembra il giocatore che perché gli altri li conoscevamo, Messi ha avuto una partenza eccezionale con 4 gol, poi si è fermato nelle ultime 3 partite. Per me è, io ho una forma di passione al confine con l'omosessualità, per me è un giocatore pazzesco, quindi metterei lui se dovessi fare un podio, però insomma la sorpresa secondo me è relativa, perché poi James Rodriguez in realtà si conosceva, non è che giocasse alla rete, capito? No, chiaro. Quindi, non è che neanche l'avessero pagato 3 euro, 45 milioni all'ultimo fixing l'anno scorso da parte di Monaco, quindi giocatore di valore. Se potesse andare a questi livelli, francamente mi sembrava impossibile. Devo dire che Robben pure ha fatto un grande mondiale, poi al netto dell'ultima partita. Il giocatore però si spegne spesso in partite così, sarà un caso. L'incubo di questi salvataggi è un calciatore che c'è anche una spiegazione, secondo me, più che non soltanto psicologica, c'è anche una spiegazione fisica. Cioè Robben comunque uno che corre molto, è un giocatore che spende tante energie, e spesso i giocatori che spendono tante energie non hanno sotto porta una clamorosa lucidità. Sì, questo certamente. Quindi poi certo se ne è mangiati 2 nella finale del 2010 a Johannesburg con Casillas, che l'ha sempre ipnotizzato. L'altro giorno c'è stato il salvataggio di Mascherano, cioè questa vedi una patente che gli passa, ma vedi che cos'è la carriera di un calciatore veramente, cioè pensa a Messi che si gioca all'immortalità domenica la carriera di Messi cambia in un senso, cambia, ma hai ragione, pensa a quella di Robben, cioè uno lavora, questo lo dico perché delle volte giustamente non si ha pietà per i calciatori, ma giustamente, perché sono degli strafighi con un sacco di soldi, con le macchine, con le donne, eccetera eccetera, fanno delle vite meravigliose, però in queste vite meravigliose c'è una componente di stress che è unica, perché nessun'altra attività umana almeno che mi venga in mente in questo momento, dipende da una frazione di secondo come questa. Certo. Il destino passa veramente crudelmente giusto, perché è crudelmente giusto che sia così, perché se Messi davvero vuole a pieno titolo essere paragonato a quello là, come stiamo facendo da 10 anni, allora serve questo passaggio, cioè è crudelmente corretto. Però voglio dirti, la vita di un attore, di una rock star, di un personaggio televisivo, di un direttore di giornale, di non so chi, di un capitano d'impresa, non passa mai attraverso un secondo. Non passa mai attraverso arrivare un istante prima, un istante dopo. Cioè, questa roba qui è una cosa tipica dello sport, e fa la grandezza dello sport, e il confine che esiste fra arrivare un secondo prima, metterla dentro, o fare palo 2 centimetri più a sinistra, 2 centimetri più a destra, attraversa di piniglia, tanto per essere chiari. Che si è tatuato sul corpo, grandissimo. Capito? Di che parliamo? Di che parliamo? Parliamo di come stava il piede in quel momento, di quanto hai dosato la forza, di 2 centimetri più in alto o più in basso. Quindi questa roba qui la dico non perché adesso dei calciatori, gli eroi della vita sono altri, sono quelli che risolvono le malattie, che fanno ricerca, eccetera. Non c'è discussione. Però questo stress qui, secondo me, è una cosa tipica degli sportivi in generale e dei calciatori in particolare, perché il calcio, poi, tutto questo è uno sport particolarmente liquido, come dico spesso. È uno sport nel quale veramente la differenza viene fatta ma c'è anche questa poesia nella sconfitta, nella traversa di piniglia, in Robben che buca le partite importanti, anche questo è tutto parte del gioco. Stiamo facendo un sacco di filosofia, ti rendi conto, amico mio? Ma sì, ma perché siamo al delirio filosofico. Altri, fra un po' c'è Barisoni, fra quanto arriva Barisoni? Barisoni tra un po'. Barisoni, la Zanzara c'è ancora? La Zanzara, certo. Mica, certo. Non è che perché sei andato un mese in Brasile che ha cambiato tutto. Tutto normale, tutto cuore tranquillo. Denari c'è la mattina, Cuore denari, tutto sereno, perfetto. Le ragazze stanno bene, non ti preoccupare, stai sereno. Qui tutto a posto, tutto a posto. Senti, un'ultima cosa, poi ti saluto. Volevo farti notare come mondiale fiera del paradosso più totale. Poi ricaviamo regole generali, no? Da questo paradosso ricaviamo regole generali. Oddio, abbiamo perso, tutto da rifare se buttiamo per aria interi settori federali, bruciamo interi per personaggi, persone, commissari tecnici, presidenti. Poi scopri che la linea difensiva dell'Argentina, abbiamo detto più volte, è una roba da bassa Serie A, con un portiere ex Sampdoria che era un panchinaro assoluto, riservaccia del Monaco, e adesso lo vuole perfino Rihanna e sua moglie forse glielo presta. Sì, che ti devo dire, questo è un altro mistero. Ma guarda, è paradosso questo, però, più totale, eh? Questo è il paradosso più totale, ma ce ne sono tante di storie di questo tipo, eh? Sì, ce n'è un sacco. Dai, Yepes che è stato comunque il leader di una delle squadre più ammirate in questo, leader difensivo di una squadra più ammirata in questo mondiale. Assolutamente. Ma io penso questo, che molti giocatori forse si sono anche risparmiati, forse anche lo stesso Messi, che ha fatto la peggiore stagione da quando degli ultimi 5-6 anni, con 43 gol stagionali, che sono tanti ma non sono quelli degli anni scorsi. Lui arrivò a fare 92 gol nell'anno solare 2012, quindi insomma, sicuramente è stato distante da quei picchi lì, e tanti altri giocatori secondo me il meglio lo riservano per la nazionale, un po' perché magari sono giocatori che non hanno la forza per poter fare 50 partite bene in stagione, mentre hanno la forza per poter essere focalizzati per un mese e mezzo. È un po' secondo me perché ci marciano, ma non è che ci marciano cattiveria, è che comunque insomma ogni giorno della tua vita in uno sport di alta prestazione tu hai un livello di focus che può essere altissimo, può essere alto, può essere medio, e per il mondiale è altissimo, per cui tu vedi la Colombia che con una difesa di riserve del campionato italiano ha fatto quello che ha fatto. Ti saluto con questo messaggio dedicato a me, Roberto da Parma. Nel 78 all'Argentina al mondiale l'hanno fatto vincere, nell'86 l'hanno rubato. Ci scommetto che da bambino a Guardie e Ladri tu facevi sempre il ladro. Grazie Roberto da Parma. Ciao Pier. Ciao. Io penso che noi siamo qua per dire un certo numero di fesserie. Io facevo sempre il ladro di sicuro, cioè proprio matematico. Alessandro Modena, buongiorno. Ciao, grazie della convocazione. A proposito di Argentina, ti ricordi che l'avevamo vinto 2-1 nel gol di Bettega e Rossi? Certo, come faccio a dimenticare? 78, Certamente. A proposito di Berzotte, ricordiamoci che 78-1-0 gol di Bettega. mi pare di ricordare. A me mi sembrava 2-1. Con quel triangolo, con quel triangolo bellissimo al limite dell'area. Gol di Bettega sicuramente. Gol di Bettega sicuramente, triangolo bellissimo al limite dell'area. Bettega, Rossi di tacco a Bettega, gol con Figliol che si butta da una parte e la palla che va dall'altra. 1-0 per l'Italia, primi del girone. Mm-hmm. Niente, io volevo dire soltanto che secondo me non siamo così messi male come movimento calcistico, perché tutte le volte che subiamo questa eliminazione sembra sempre che dobbiamo sempre sì, fare certo. Tutto. Questo è vero, ma ci bisogna trovare, dicevo prima, delle regole generali nell'area più assoluta. Poi ci sono dei motivi reali, però... Talenti ce ne sono in Italia, c'è scarso coraggio da parte dell'allenatore, in primis nel nostro allenatore... selezionatore della nazionale, perché alla fine poi su chi ci siamo affidati? Su un Cassano, su giocatori usati sicuri, ma non quelli usati sicuri tipo Klose o come poteva essere un Toni, ma su giocatori che in media ti hanno spinto a andare a prendere, però alla fine mancate un'identità. Tu mi parli giustamente dell'Argentina, l'Argentina secondo me è mediamente scarsa ma ha una forte identità. Questo è vero, ma infatti guarda, ti dico, più che la scelta degli uomini, il discorso che condivido è questo, più della scelta degli uomini, perché secondo me Prandelli alla fine non ha sbagliato molto, poi ognuno ha i suoi gusti, è chiaro che Giuseppe Rossi ad esempio l'avrei portato anche a mezzo rotto e poi vediamo cosa succede, su destra possiamo parlare, ma sono dettagli, la verità è quella che hai detto tu, cioè che queste squadre hanno una profonda identità, piaccia o non piaccia, Argentina è una squadra ad esempio bravissima nel far giocare male, ma molto molto male gli avversari, e dicevo come qualità la linea difensiva dell'Argentina, insomma, ripeto, è roba da bassa Serie A, così come quella della Colombia, eppure paradosso sono la miglior difesa di questo mondiale, e il loro segreto non è tanto Messi là davanti, ma è la tenuta difensiva, con davanti un Mascherano che è il vero leader assoluto di questa squadra. Il problema è che sai, torniamo sempre lì, Maradona era leader tecnico ed emotivo di quella squadra, Messi può essere leader tecnico ma certamente non sarà mai leader emotivo, però almeno leader tecnico sì, e se non riesce ad esserlo, allora di che cosa stiamo parlando? Allora è giusto che domenica sera si giochi buona parte della sua carriera in valore assoluto. Antonio Taranto, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Eccomi. Eccola. Mi dispiace per lei, ma io tifo Germania. No, ma per me. Sono un europeo. Ma io sono contento. Cittadino europeo. Sì, no. Ecco. Ma io no. Ecco, io diciamo così, sempre che vado in Germania in Austria col cane, quindi. Mi sento molto ma va bene tutto, dire, io ho tifato per tanti anni Guardiola e il suo Barcellona, quest'anno ho tifato per Real Madrid, che c'è un nostro connazionale di certo, lusso, il certo. Signor Carletto Ancelotti, certo. Ecco, e quindi voglio dire, per me la Germania, se vince metterò la bandierina fuori. Addirittura la bandierina della Germania. Ma sono europeo allora, perché abbiamo fatto no, l'Europa ma con, no, ma ho capito, mette anche una fotografia magari piccolina della Merkel? No. No, quella no. Merkel no. Quella meglio di no. Solo la bandierina. Una volta mettevamo le donnine mezze nude sui vetri laterali sul camion. Sì, adesso Merkel. Fammi metterò qualche altro, un giocatore magari, o Merkel proprio. No, Merkel, la bandierina sì, a Merkel no. Vabbè, no. Siamo su barricate opposte, Antonio, ma va benissimo, cioè mancherebbe altro che, insomma, bisogna per forza, è obbligatorio dividersi anche nel tifo, se no sai che noia. Grazie Antonio, saluti la Merkel. Marco, provincia di Venezia, buongiorno. Salve, grazie di avermi convocato. Io invece non sono per niente d'accordo sull'Argentina, perché secondo me la difesa è una delle più forti nel mondiale. Insomma, lo è. Perché ci sono più gol di Piniglia. Come? C'è il difensore esterno destro che è Zabaleta, se non sbaglio. Aspiricheta è un gran bel giocatore. però Garay, Fernandez, questa gente... Garay è un signore difensore, secondo me. E anche Mascherano, uno che sa dirigere molto bene la difesa. Mascherano è un professore, gioca davanti alla difesa in questo caso, ma è assolutamente un professore ed è davvero il perno, ripeto, non solo tattico ma anche emotivo di questa squadra. Poi, ma allora... un portiere come Romero che è decisamente inferiore a molti portieri, secondo me è un vantaggio perché è la difesa di un mondiale di essere più concentrati, secondo me. Sì. Quello è stato un vantaggio perché aveva un portiere talmente molto più forte, sì. A parte che l'Argentina non ha mai avuto un portiere fortissimo, no, però aveva un portiere più forte rischia di dare tutto il peso al portiere. Abbiamo visto il Brasile che Julio Cesar ha dovuto fare paratoni, ha fatto 8 partite al Toronto, cioè è impossibile lasciare praticamente tutta l'importanza di una partita del portiere. È fatto benissimo, secondo me, l'allenatore dell'Argentina con Romero. Beh, benissimo, ha preso quello che avevano, però a proposito di qualità e di valore assoluto, cioè Romero era ex portiere a Sampdoria, ha giocato a buon livello nel nostro campionato, nella nostra Serie A, e quest'anno non ha giocato mai, 3 partite se non ricordo male, riserva, ripeto, assoluta in fondo alla panchina del Monaco. Convocati. In effetti c'è un ascoltatore, Massimo da Mestre, che mi fa notare un curioso particolare che non mi dice benissimo, per me, ripeto, che tifo albiceleste, l'Argentina giocherà la finale dei mondiali con la seconda maglia, cioè quella blu, mentre la Germania con la tradizionale maglia bianca, cosa che accadde anche alla finale del 90. Nell'86 invece il contrario, Argentina in camisetta albiceleste e Germania in verde. E lì andò meglio. Direttore Savia Iacobelli, calciomercato.com. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Buon voi. Come la vedi la finale, tanto per cominciare? Beh, è una bella finale. Due squadre più diverse non potrebbero affrontarsi, però credo che siano le due che abbiano maggiormente meritato di contendersi il titolo mondiale. Hai una ragione di cuore in questa finale? Cioè, c'è una, ho che una ragione di passione per il calcio. Devo dirti che la Germania, che ha rifilato il 7-1 al Brasile, mi ha entusiasmato, e credo che questa sia stata una delle più belle partite dal punto di vista della tattica e dei movimenti di una squadra in campo. Sembrava veramente una sorta di PlayStation, sì. Tutti erano al posto giusto nel momento giusto, e tutto questo è stato sublimato secondo me dalla prestazione di uno straordinario giocatore che si chiama Müller, sì. E che è non soltanto un grande attaccante a cui prolificità è sotto gli occhi di tutti, ma è un giocatore universale che si mette al servizio della squadra. Sul 7-0 l'ho visto rinculare in difesa per aiutare la retroguardia tedesca, sul 7-0. Bellissimo, secondo me è un giocatore clamoroso. Curiosamente nel Bayern Monaco non trova spazio, qualche volta si è parlato anche di possibile cessione di questo giocatore in maniera totalmente incomprensibile per me, ma comunque è vero, Germania sempre tutti giusti al posto giusto, contro quegli altri poveretti sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Chiara squadra in totale crisi di nervi, secondo me. Beh, lì ha contribuito anche Scolari con le sue scelte scriteriate, certo. Con tutto il rispetto, perché adesso ovviamente va di moda il tiro allo Scolari. Sì. Onestamente non mi aspettavo che un grande tecnico del suo calibro infilasse in questo vicolo cieco. Ha sbagliato la formazione iniziale, ha tenuto fuori Hernanes, ha continuato a insistere su Fred. La cosa veramente, come dire, che ci ha colpito di più è che il Brasile si sia presentato a questo mondiale senza una punta di livello internazionale degna di questo nome, perché tra Fred e Joe, troppo nell'uno nell'altro, hanno reso secondo le aspettative di Scolari. Dopodiché lui stesso si è incartato e in difesa, quando non c'è Thiago Silva, David Luiz torna un difensore centrale normale. Certamente, perché Thiago Silva ha il valore aggiunto, quello che ti cambia il valore dei compagni di squadra, come sostengo sempre, caratteristica dei grandi campioni. Senti direttore, giorno di presentazioni, Barcellona ha ufficializzato Suarez, l'Arsenal Sanchez, il Bayern di Monaco Lewandowski, questo si sapeva già da tempo, l'Atletico Mandzukic, il Milan Agazzi. Beh, d'altra parte non dobbiamo stupirci, noi siamo rotolati alla periferia dell'impero in questi anni, sì. Ma non solo e non soltanto, perché basti pensare alla parabola del Milan, che la stessa Barbara Berlusconi con molta franchezza ha sottolineato a più riprese. Il Milan alla fine degli anni 90 era la prima squadra europea per fatturato, adesso non l'è più, è scivolata nella top 10 perdendo molte posizioni. Ma perché? Perché evidentemente, al di là dei risultati sportivi, è il sistema calcio italiano che non ha funzionato. E quando il presidente del CONI, Giovanni Malagò, prima del mondiale diceva che alcuni dirigenti del calcio italiano si erano resi responsabili di scelleratezze. Aveva ed ha perfettamente ragione, perché le centinaia di milioni di euro buttati dalla finestra per ingaggiare bidoni italiani o stranieri per strapagarli, dopodiché sono ripercorsi come un boomerang sul calcio italiano. Sì, certo. Poi seguiremo l'uditorio parlando della questione stadi, tra tutti i mali che sono già stati sviscerati abbondantemente anche da tutti i convocati della Radio 24. Sì, sì, certo direttore, però non è che l'Argentina che giocherà la finale del mondiale sia messa molto meglio di noi. No. È chiaramente un paese da esportazione, lì sì, a 16-17 anni prendono la loro valigina e vanno a giocare in giro per il mondo. Per gli italiani è un po' diverso. È diverso anche perché c'è una mentalità provinciale del nostro calcio, lo abbiamo visto nell'approccio di diverse società italiane alla Europa League in questi anni, e abbiamo perso anche la quarta squadra in Coppa dei Campioni, la terza deve arrivarci passando sotto le forche caudine del turno preliminare. Abbiamo visto che cosa significa essere un giovane nel campionato italiano, cioè se non hai almeno 23-24 anni non vieni buttato nella mischia. Abbiamo visto il Belgio Origi, classe 1995, gli Stati Uniti Green, classe 1995, ha già una presenza in Champions con il Bayern Monaco, non con il Battelapesca. È una questione di mentalità, troppi tecnici italiani hanno paura di rischiare e bruciano i giovani, oppure non li bruciano, il timore di bruciarli, non li impiegano, e questi sono costretti ad arrabondare in serie inferiori. Non c'è il campionato riserve. Leggevo l'altro giorno una interessante, molto interessante intervista della Gazzetta dello Sport a Frank de Boer, allenatore dell'Ajax, campione d'Olanda, il quale giustamente diceva: noi i nostri non li prestiamo, li facciamo giocare nella squadra B, nella squadra riserve, perché sappiamo come si allenano, sappiamo che seguono le stesse indicazioni tattiche, ce le abbiamo sotto gli occhi e sappiamo in quale ruolo giochino. Quanto ci vuole a fare il campionato riserve? Sono 4 anni che ne stanno parlando. Sì. I signori che sono asserragliati dentro il palazzo e che meritano adesso una rivoluzione mesozoica. Sì, questo è l'unico aggettivo che si proponga. Sì. Perché all'anno zero del calcio italiano c'è una cordata di signori. Non è una questione di età. No, non è, fanno 205 anni. No, l'età è direttore, l'età è un pretesto, è una questione di idee. È un pretesto, per autoconservare il sistema, per autoconservare le poltrone, per non fare nulla. Tra l'altro, in questo paese fantastico, noi siamo stati eliminati il 24 giugno in maniera invereconda dal campionato del mondo, seconda tornata consecutiva nel girone. Dopodiché il 30 giugno hanno convocato il Consiglio federale, hanno deciso di non decidere, ma di decidere l'11 di agosto, nominando poi, se tutto va bene, il CT attorno a Ferragosto, e c'è soltanto questa piccola passeggiata di salute con l'Olanda il 4 settembre a Bari, e quella del 9 di settembre a Oslo contro la Norvegia nella prima eliminatoria per l'Europeo 2016, che è il traguardo minimo del nostro calcio. Non benissimo. Questa è organizzazione, questa è programmazione, e questi vogliono rifondare il calcio italiano. Non benissimo, anche perché il Consiglio federale dell'11 di agosto era quello già fissato, è stato cambiato il nome, no? Adesso è diventata assemblea elettiva, e tanto si arriverà lì esattamente la situazione in cui si era 10 giorni fa, cioè non cambierà nulla se non un sacco di polemiche intorno. Un'ultima cosa ti voglio chiedere: la Juventus sta facendo un mercato di livello europeo? Morata, Evra e probabilmente Turbe? Sta facendo un mercato competitivo. Perché credo che la scelta di Morata sia soprattutto la formula del riscatto, del controriscatto e del prezzo che il Real Madrid eventualmente dovrebbe pagare fra 2 anni se decidesse di riportare a casa Morata, cioè 30 milioni di euro, sia una formula intelligente. Questo è uno dei migliori talenti dell'ultima generazione del calcio spagnolo e sarà un caposaldo della nuova Spagna, che verrà ricostruita velocemente dopo il fallimento mondiale, perché loro, a differenza dell'Italia, hanno una generazione di under 21 e di under 23 formidabile. E credo che anche Evra ha sì 33 anni, ma secondo me nel pieno della maturità e può offrire quel contributo di esperienza di classe internazionale, venendo dagli anni del Manchester United, di cui la Juve ha bisogno. I Turbe in prospettiva è destinato a monopolizzare l'attenzione del calcio anche internazionale nei prossimi 5-10 anni. Deve dimostrare con la maglia della Juve che cosa significhi essere un ala antico santo, perché io la chiamo così, non la chiamo né esterno, alto, basso e tutto il resto, e quindi penso che gli si offra una strepitosa occasione alla scuola di Conte. Poi rimane la Juventus, è rimasta comunque l'unica nella riserva indiana a fare un mercato. Sono d'accordo. D'altra parte, vedi, il Milan è costretto a vendere prima di comprare, perché anche l'interessamento di Turbe, ma se il Verona valuta i Turbe 30 milioni di euro, Galliani ci dice che prima devono vendere per poi comprare, chi vendono? Balotelli. Ma Balotelli in questo momento non riescono a venderlo. Ce l'ha detto anche Berlusconi, no? Che prima sì, il sì. Mondiale c'era una sorta, durante il mondiale c'era una sorta di preaccordo con un club inglese, cioè l'Arsenal per 35 milioni, poi l'Arsenal ha preso Sanchez. Beh, ma certamente ha visto cosa fa, ha visto cosa ha combinato il mondiale, ha detto aspetta un attimo, forse vado su Sanchez. Grazie direttore, buon lavoro. È stato un piacere, grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie Savia Iacobelli. 800 24 00 24, numero verde. Luca Verona, buongiorno. Luca Verona, buongiorno, magari un'altra volta ci riproveremo. Sono curioso di scoprire oggi un sacco di ascoltatori bravi, sono curioso di scoprire chi andrà la maglietta griffata a tutti i convocati oggi, chi sarà il migliore in campo. Io tanto stavo leggendo un po' di messaggi, mi sembra ci sia una netta predominanza di tifo in prospettiva finale. Tifo a me contrario, quindi tifo per la Germania, quasi un plebiscito. È stato abbastanza sorprendente invece notare che ci sono diversi, cioè, parecchi brasiliani che ti faranno Argentina. Questo non me lo sarei mai aspettato, sinceramente. Tra l'altro, tra un attimo andremo al Tour de France. Mi sembra che in Francia sia o stia per esplodere la Nibali-mania. Speriamo che possa durare queste tre settimane. Altra cosa che volevo dire stamattina, bel volo sempre su due ruote, bel volo di Marquez nelle prove libere sul circuito del Sachsenring, circuito molto strano, molto difficile, il più corto dell'intero motomondiale. Brutta caduta per lui, gran botta, niente di rotto, niente di particolarmente grave, ma vedremo se con questa caduta condizionerà in qualche modo Marquez nella corsa di domenica, senza dimenticare che si vede che a destino un anno fa proprio su quel circuito ci furono i due gravi infortuni di Lorenzo e di Pedrosa. Convocati. Faire du Nord, Paris, Roubaix, Tour de France, la Côte d'Azur et Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France. Skipta ha scritto, ha dedicato la prima pagina a Dantes, che c'era scritto. Ma è stata più che altro per l'impresa di ieri, perché è stata veramente una giornata molto, molto dura e molto difficile, però è andata veramente alla grande e, come ho detto, è stato specialmente anche il lavoro di squadra di ieri eccezionale. Ma oggi le strade non ha piovuto, però erano sempre molto bagnate perché c'era tantissima umidità e c'era tantissimo nervosismo in gruppo, perché si sentiva sempre questo vento e c'era aria di ventagli, però poi alla fine tantissimo stress qui nel finale, gli ultimi 10 km, 15 circa, allora poi veramente scoppia la corsa nel pieno. Ancora, come ho detto, no, è lunga la strada, quindi bisogna restare con i piedi per terra, tranquillo, e bisogna gestire bene la situazione. Anche oggi la squadra è stata perfetta, quindi nient'altro da dire. E queste sono ovviamente le parole di Nibali dopo la tappa di ieri. La strada è lunga, quella di oggi particolarmente lunga, perché è una delle più impegnative dal punto di vista chilometrico, tappa del Tour, 229 km, si va da Espernay a Nancy. Come direbbero quelli bravi, una tappa nervosa, piena di sali scendi. Giornata non semplicissima, io credo, quella di oggi, nella difesa della maglia, perché sono le classiche tappe in cui soprattutto al Tour de France si corre con grande tensione e si rischia di prendere il buco rispetto alle fughe. Ma ovviamente il discorso generale rimane, Nibali sta facendo un tour meraviglioso, e a questo punto io voglio sperare lo farà fino alla fine, poi sul risultato finale vediamo. Pier Augusto Stasi, ci sei? Ci sono, Carlo. Come va? Buon pomeriggio a tutti. Va tutto bene? Sì. Oggi non facile, dicevo, stavo provando ad analizzare la tappa di oggi. Ho detto bene tappa nervosa? Di quelle che molto ti possono... Sì. Eh? A parte che le tappe nervose al Tour de France sono tutte. Perché c'è una tensione. No, ma dal punto di vista proprio del disegno, del profilo della tappa, piena di sali scendi, piena di, credo, di trappole per chi ha la maglia sulle spalle, parliamoci chiaro. Adesso non ci aspettiamo che Nibali possa portare la maglia dal primo giorno fino all'ultimo, perché sarebbe troppo. Però questa è una giornata in cui magari potrebbe perderla. Però, così, conoscendo Vincenzo, secondo me invece farà di tutto per non mollarla neanche oggi. Certo, non deve rosolare, come si dice in gergo, la squadra, deve essere una cosa controllata. Al momento il grande lavoro lo stanno facendo gli uomini della Canon, del Peter Sagan, perché l'arrivo è in cima a un piccolo colle, cioè proprio uno zampellotto, diciamo, come direbbe Davide Cassani, che si addice moltissimo al corridore slovacco, che non ha ancora vinto in questo tour e insegue la prima vittoria in questa tappa, in questo giro, e sta lavorando tantissimo per tenere, diciamo, a delle distanze la fuga a 6 che è andata via al chilometro 10. Al momento gli uomini Astana stanno tra virgolette riposando, tutto sta procedendo per il meglio, non piove, c'è vento e nuvolo, il sole non riusciamo proprio a vederlo, però la situazione ovviamente è sotto controllo. Estate strana. Esatto, l'importante è che splenda la maglia di Vincenzo. Senti, ma per chiudere, il primo giorno importante per Nibali quale sarà? Il primo giorno difficile per Nibali quale sarà? Il primo ostacolo da superare? Allora, già domani cominciamo con i Vosges, c'è un trittico e quindi arriva questo massiccio piuttosto difficile e minaccioso. Quindi sabato e domenica due tappe non da sottovalutare. La tappa di domenica ad esempio è una tappa che mi fa un po' paura, perché ci sono diversi colli di terza e seconda categoria, ce n'è anche uno di prima piuttosto impegnativo che porterà i corridori a oltre 1000 metri, ed è la classica tappa che potrebbe ispirare Alberto Contador, che deve recuperare terreno, e quindi io credo che domani e dopo già metterà la frusta alla maglia gialla. E lunedì invece c'è proprio la tappa, la prima vera arrivo in salita, molto difficile, dove ci saranno addirittura 7 colli da superare, con arrivo in salita alla Place de Bessy, che è oltre a 1000 metri, e lì vedremo veramente se vedremo qualcosa. No, fino adesso diciamo che già adesso abbiamo visto qualcosa, ma lì si cominciano a vedere le montagne, e poi dopo ci saranno le altre. Sì, beh, chiaro. Grazie Pier, racconteremo tutto. Grazie a voi. Grazie per Augusto Stagi. Allora, Ignazio da Roma, c'è chi mi scrive: date per un'informazione interessante per una volta. A che ora giocano Germania e Argentina? Anzi, ci mettiamo a fare il bollettino meteo. Giocano alle ore 21 Germania-Argentina. A chi piacesse anche la finale, l'insopportabile finale per il terzo posto tra il Brasile e l'Olanda, che sia chiaro, Brasile-Olanda, ore 21. Antonino Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao. Volevo chiedervi, chi conduceva 4 anni fa la medesima trasmissione ai mondiali in Sudafrica? Lo ricordi? Era Garanzini, era tutte e due, lui a quest'ora, io la sera, e credo che proprio tu, mi ricordo benissimo, dicesti: è stata oggi eliminata, era diciamo l'eliminazione della Germania, ma questa squadra vincerà il mondiale del 2014, te lo ricordi? Faccio fatica a ricordarmi che cosa ho detto all'inizio del programma, Antonino, però se tu mi dici così io ci credo e ti ringrazio. E diceva le piattaglie della redazione: ripeschiamo per lunedì, quando non ci sarò, sarà Giovanni Capuano fino a giovedì, perché devo andare in Brasile a recuperare Pardo, non per altro. Ma torno venerdì prossimo, sono qui, vado in Brasile a recuperare Pardo. Tra l'altro, ne approfitto per darvi informazioni di servizio, anche a beneficio degli ascoltatori che vogliono sapere a che ora si giocherà la finale. Sempre 21, ricordo, domani Giovanni Capuano alle 17, domenica pure 17-19, lunedì ultimo appuntamento di 2 ore, e poi per l'estate, ragazzi, un'ora sola, ma tutti i giorni, di tutti i convocati. Migliore in campo di oggi, Antonio Taranto, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Per me la Germania, se vince, metterò la bandierina, sto fuori. Addirittura, la bandierina della Germania. Ma sono europei allora, perché abbiamo fatto capito. Mette anche una fotografia magari piccolina della Merkel? No, quella meglio di no. No, solo la bandierina. Una volta mettevamo le donnine mezze nude sui vetri laterali sul camion. Sì, adesso la Merkel. Dai, metterò qualche altro, un giocatore magari, no. Merkel, la bandierina sì, a Merkel no. Mi pare giusto. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schiattone in redazione. Domani alle 17, domenica alle 17, lunedì alle 14, questi appuntamenti con Tutti Convocati. Ciao. Davide Cassani, CT della nostra nazionale. Ciao Davide. Ciao, buon pomeriggio a tutti. La Stan è una squadra forte, fortissima, vabbè. Però se tu vuoi vincere il tour, come Vincenzo Nibali sta cercando di fare, portare la maglia gialla per 3 settimane non è semplice per niente, anche perché non dimentichiamolo, tra controllo antidoping, conferenza stampa e annessi e connessi, tu arrivi in albergo 2 ore dopo gli altri. È un lavoro anche essere leader del Tour de France. E ringrazio naturalmente Luis Augusto Monaco della Foglia del San Paolo. Buongiorno, ciao Luis. Buongiorno, quest'anno ho sentito troppo la pressione, quindi nella prima partita, dall'alto gol di Marcello nell'esordio fatto alla Croazia, sentivano obbligati a vincere il mondiale, il secondo mondiale in Brasile, non potevo perdere questa occasione. Sicuramente l'aspetto psicologico è stato decisivo anche per questo risultato vergognoso. Emiliano Mondonico, buongiorno. Beh, io ho avuto la fortuna di conoscere Abete, ma di conoscere anche Tavecchio e Macalli. Questi qui sono dei bei peperini, non è gente, sai, che si lasciano influenzare, è quella gente che magari per tanto tempo è stato all'ombra, alle volte essendo d'accordo, spesso e volentieri non d'accordo, però chiaramente rispettando determinate regole. Diciamo che io ho qualche anno in meno, ma non siamo mica così da buttare via, anzi, no, abbiamo fatto esperienze che gli altri forse se le sogneranno e basta. Perciò prima di rottamarli, cerchiamo almeno di capire la metà di quello che hanno capito loro. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete. Bello, Tutti convocati.